Faccio parte di una classe dannata, rap dannata. Qui una fanno alla ricerca di un posto migliore, ma ogni sedia è già stata occupata. Fra te non arranco ma mi arrangio, le mani nel fango e la testa ad un gancio. Rima in bocca, pronto il lancio. In certi posti il rispetto è tipo la vita o la borsa. Ed il tuo fregasse mi diventa scomodo, come cambiarsi una scarpa in corsa. In mano penne blocco, in testa beat e rime blocco. Quattro quarti con le dita in schiocco, inquietante. Il sangue sui vestiti, il cadavere tra i piedi poco distante. Eclatante, in mano stringo il mic ancora fumante. Ho saziato il lupo e salvato Cappuccetto Rosso. Occhi cattivi e stazza da colosso, ma come ogni cane ti accontenti di rosicchiare l'osso. Sono brano, sono sardo doc, sono il microfono aperto. Sono colui su cui ricade il sospetto. Sono il maggiordomo con le foto delle vittime nell'armadietto. Questa è la vita e la vita non è scema. Tutto è scritto in una chiave di schema. Dalla nascita alla morte tutto parte in una catena. Ed è guerra nelle strade, ogni arma è lecita per dare morte alle zanzare. Le puoi avvelenare, schiacciare, soffocare, ma non le puoi sterminare. Sono una zanzara e continuo a procreare. Ed è guerra nelle strade, ogni arma è lecita per dare morte alle zanzare. Le puoi avvelenare, schiacciare, soffocare, ma non le puoi sterminare. Sono una zanzara e continuo a procreare. E sto nel marcio, la fame addosso come un tatuaggio nel braccio. La gente si chiede cosa cazzo faccio. Ho un lavoro che è uno straccio, qua la vita è un calcio. Siamo zanzare dentro questo mondo malato. Siamo zanzare dentro questo mondo infetto. La gente parla e ci prende da dietro. Chiudono le nostre idee in un cassetto. Bruciano ogni nostro progetto. Siamo zanzare in questo mondo maledetto. Un'arma carica e un dito nel grilletto. E mi chiedo cosa cazzo aspetto. Forse tu non lo sai, ma una zanzara si moltiplica. Una zanzara vive dentro ogni critica. Qua la vita è un grido. Bruciano l'aria che respiro. Sono padroni delle nostre emozioni, ma lontani dai nostri suoni ci regalano visioni. Signori e signori, la zanzara sono fuori in un mondo rapito dai coloni. Sono una zanzara che contamina l'aria. Sono una zanzara pronta a difendermi. E tu, se non sei una zanzara, qua vieni a prendermi. Guerra nelle strade, ogni arma è lecita per dare morte alle zanzare. Le puoi avvelenare, schiacciare, soffocare, ma non le puoi sterminare. Sono una zanzara e continuo a procreare. Guerra nelle strade, ogni arma è lecita per dare morte alle zanzare. Le puoi avvelenare, schiacciare, soffocare, ma non le puoi sterminare. Sono una zanzara e continuo a procreare.